Mercoledì 25 gennaio 2005, sono le 10:02 minuti, mi trovo sulla via Pontina, in ritardo, diretto verso Pomezia, un ritardo in qualche modo giustificato da qualche problema a far partire la macchina. Stamattina dalle parti di casa mia ha nevicato e al di là della grande gioia di mia figlia, che non aveva mai visto la neve, c'è stata qualche difficoltà nell'avviare il motore. Comunque adesso tutto è tornato nella normalità, nonostante il fatto che i mezzi di comunicazione facciano di tutto, aprendo con titoli catastrofici, per farci sentire degli eroi in questa che invece è la normalità, in questa che è la madre di tutte le non notizie. Il fatto che d'inverno faccia freddo è credo la palissiano, eppure evidentemente i giornalisti non sanno più fare il loro mestiere, non sanno trovare le notizie anche là dove ve ne sono. In questi giorni ve ne sono parecchie, e preferiscono puntare su un meccanismo più becero, come al solito, cioè quello di giocare sui più bassi, primitivi istinti del fruitore dei mezzi di comunicazione, che desidera ancor più dell'essere informato sentirsi al centro di una finta notizia, come la famosa morsa del gelo. Io devo dire che trovo una certa vergogna al pensiero che, per esempio, la RAI venga vista con i suoi telegiornali in tutto il mondo grazie al satellite. Il pensiero, per esempio, di un telespettatore di Vladivostok, della Siberia orientale, che assiste a questo finto dramma, a questa vera e propria vergogna del modo in cui gli italiani percepiscono il freddo, o il modo in cui viene presentato il fenomeno meteorologico del freddo agli italiani, è quanto di più ridicolo. Io spero veramente che un giorno qualcuno, qualche capo redattore, si alzi in piedi e si imponga e proponga una battaglia contro questo tipo di iniziative giornalistiche.